prendere posto. Benvenuti e grazie per essere venuti qui alla terza iniziativa del gruppo Maelstrom qui al Cox 18, con la proiezione di AMP, note. Non si sente? No? Ok. Adesso facciamo una breve introduzione. Tony, se vuoi venire qui e iniziare a parlare e a introdurre appunto l'evento di questa sera e i suoi ospiti. Allora, ci siamo. Qua ci sono i bicchieri. Ciao, buonasera. Presentiamo questa serata. Dopo l'ultima iniziativa fatta 3 mesi fa a Margini del Quadro a febbraio, 4 mesi fa, continuiamo questo percorso di proiezioni. Per chi non ci conosce, Gruppo Maelstrom è un collettivo cinematografico fondato da ex studenti e lavoratori del settore audiovisivo che hanno deciso di mettersi insieme per diverse ragioni, innanzitutto quella di interrogarsi sul ruolo dell'audiovisivo nel mondo in cui viviamo e quindi cercare di capire innanzitutto tra di noi come poter utilizzare questo strumento molto potente su un piano politico e anche a sostegno delle lotte, in cui infatti abbiamo qui un'esperienza che poi introdurremo meglio con Chiara e i compagni e le compagne dell'ambulatorio. E niente, quindi dicevamo, il collettivo nasce un paio d'anni fa e si è strutturato principalmente tra Milano e il sud della Svizzera, e quindi da un lato c'è questa idea di riflettere tra di noi, affrontare alcune di queste questioni accennate, ma anche c'è l'idea di mettersi insieme per portare avanti a livello pratico la realizzazione di alcuni lavori. E niente, venendo alla serata, abbiamo scelto per questa sera il film di Chiara Campara e Valeria Vittoria Soddu, che non c'è perché sta in Sardegna, e il film si chiama AMP, note Noti per una pratica di autogestione. Abbiamo scritto appunto Note per una pratica di autogestione, che racconta un po' l'esperienza dell'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti, che è un'esperienza nata nel 1994. Adesso poi lasceremo la parola alle compagne dell'ambulatorio, che ci spiegheranno un po' di cosa si tratta. Il motivo per cui abbiamo scelto questo film, sicuramente, come abbiamo detto, perché è un esempio di un film che dimostra come il cinema può essere uno strumento molto potente a sostegno delle lotte, e allo stesso tempo perché pensiamo che la questione della sanità sia una questione molto attuale. Alcuni nodi stanno venendo al pettine. C'è chi già da anni, come le compagne, i compagni dell'ambulatorio, ma anche altre realtà, avevano iniziato a interrogarsi su dove stava andando a parare il disastro creato da privatizzazioni, insomma, da tutto quello che sappiamo. E nell'ultimo periodo abbiamo visto che sono nate, stanno nascendo alcune lotte. Ad esempio, giusto per citarne alcune, in provincia di Varese, dove io sto, a Gallarate e a Saronno si sono creati dei comitati che hanno visto nelle ultime settimane la partecipazione di molte persone, questo proprio perché la sanità sta diventando un settore sempre più escludente verso gli strati più deboli, più poveri della popolazione, e quindi appunto, trovandosi davanti a chiusure, privatizzazione, la questione inizia ad essere sentita da persone che non possono permettersi il lusso di pagare per una sanità privata, non possono permettersi, insomma, di di spendere dei soldi per tutelare la loro vita. In questo, vabbè, adesso lascerò la parola ad Alessandra che ci spiegherà un po' meglio come si è arrivati a questo punto, qual è la situazione sui territori e eventualmente magari capire anche come queste lotte potranno svilupparsi. Poi vedremo il film e alla fine con Chiara ragioneremo un po' su quello che abbiamo visto e là ci sarà il microfono aperto, quindi a noi farebbe piacere creare un momento di discussione, di confronto per capire un po' come andare avanti. Quindi niente, mi lascio la parola, mi scuso per essermi un po' incartato. Ciao a tutte e tutti, io sono Ale dell'Ambulatorio, qua con me c'è anche Sandra. Noi di solito facciamo interventi sempre un po' a dialogo, ecco, più che singoli, e introduco brevemente appunto la nostra realtà, che è quella dell'Ambulatorio Popolare di Via dei Transiti. E questa realtà, appunto, come dicevamo, nasce nel 1994, e questo in risposta a una situazione politica a cui andava dato un segnale. Ecco, questa situazione era comunque una cavalcata importante della Lega, che appunto, come diciamo, questa cosa non è cambiata nella sua storia, comunque aveva aperto con una grossa impronta di esclusione, ecco, questo in particolare nei confronti delle persone migranti. Quindi la risposta che era stata data era appunto anche l'apertura di un posto che invece non fosse di esclusione ma fosse appunto di inclusione, e come poi vedremo nel film di Chiara e Vittorio, anche per dare una risposta che fosse una messa in pratica di autogestione proprio, quindi non solo diciamo una cosa a livello più assembleare, ma proprio una messa in pratica di questa lotta. E l'autogestione, che spesso ritorna appunto anche non solo nel titolo ma anche poi in alcuni stralci del film che vedremo dopo, è un concetto per noi molto importante, e siamo molto, diciamo, ci teniamo molto proprio alla declinazione pratica di questa parola. Questo anche a fronte di quello che abbiamo visto in questi 29 anni di apertura. Non ho detto che, diciamo, l'ambulatorio era nato con il motto chiudere il prima possibile. Detto ciò, quest'anno sono 29 anni, quindi diciamo che su questo ancora non ce l'abbiamo fatta. Però le cose sono cambiate in questi 29 anni dalla nostra apertura, e non sono cambiate in meglio. Citavamo prima la questione della privatizzazione, quindi mentre già sapevamo che comunque in Lombardia era difficile per le persone migranti comunque avere la stessa sanità che abbiamo noi cittadini italiani, questo perché loro non è data la medicina di base, e perché comunque c'è anche, diciamo, anche tutto il percorso burocratico, è un percorso burocratico pieno di insidie. Adesso diciamo magari butto lì un po' di cose, poi se volete anche durante il diciamo dopo il film possiamo eventualmente approfondire alcune tematiche particolari. Però poi quello che è successo con la privatizzazione, che non è stata una cosa piovuta dal cielo o una cosa inevitabile, è stato un preciso progetto politico che travalica anche i confini regionali, e questo lo vediamo sempre di più, lo abbiamo già visto, diciamo, si vedeva già prima della pandemia da Covid-19, forse quella pandemia addirittura è proprio esploso come diciamo in tutta la sua importanza come tema. E quindi non è più solo la persona non italiana a essere esclusa. La persona non italiana ovviamente in una situazione di irregolarità o in tutte quelle situazioni di grigio che ci sono tra l'irregolarità e invece la regolarità con permesso di soggiorno. Poi teniamo presente che, diciamo, un permesso di soggiorno non è presente, per cui anche dalla situazione di irregolarità si può entrare e uscire, ma nel tempo poi con questo fenomeno di privatizzazione sempre crescente, e quello che abbiamo visto è che poi essere escluse iniziavano a essere proprio fasce della popolazione, ma proprio in base al loro reddito, possiamo dire, cioè l'effetto di tutto questo piano politico di privatizzare la sanità è stato poi quello che abbiamo noi oggi davanti agli occhi, cioè quello di una salute e di una sanità, che sono due concetti che diciamo su cui ci sarebbe anche tanta materia politica di approfondimento, ma diciamo proprio di politica come discorso, mi verrebbe da dire, come riflessione, come anche pratica di autodeterminazione, ma forse una parentesi un po' lunga. Diciamo che quello che sta diventando la salute e la sanità è sempre più una cosa classista, perché ci sono sempre più persone che, come dicevamo, non si possono permettere di accedere alla sanità quando vogliono, le liste d'attesa, come sappiamo, sono sempre più lunghe, quindi non è detto che poi rispondano al bisogno poi della popolazione nei tempi che servirebbe alla popolazione, quindi chi se lo può permettere va immediatamente nel privato, può utilizzare l'intramenia, c'è anche chi per lavoro ha un piano di insanità integrativa, per cui ecco, anche su questo non c'è solo un privato che diciamo sta attaccando la salute e la sanità pubblica, ma ci sono anche tanti diversi soggetti, perché ci possono essere le grandi aziende ospedaliere private, così come le assicurazioni tramite i piani di sanità integrativa, che comunque diciamo sono un altro tema molto importante da questo punto di vista, perché se noi pensiamo che sono dei piani sanitari che una persona ha o non ha in base al suo status lavorativo, quindi se lavora, che tipo di lavoro fa, che tipo di piano ha fatto l'azienda e così via, nel momento in cui poi questo lavoro viene a mancare, ovviamente viene a mancare anche il piano di sanità integrativa, e quindi anche questo non è salute pubblica, anche questo non è sanità pubblica. Ci sono anche altri soggetti privati come le aziende, se pensiamo al PNRR, molti piani che erano stati fatti erano stati proprio nella logica del far, tra virgolette, interagire il privato con il pubblico all'interno della sanità, aziende farmaceutiche comprese, quindi vediamo tutta una serie di soggetti che per quanto si occupino di salute e di sanità, poi invece hanno come unica luce quella del profitto, ed è questo un po' il nodo politico davanti al quale ci troviamo, cioè che non stiamo parlando di una salute su termini epidemiologici, su termini di quello che noi consideriamo in salute o che vorremmo per salute, ma proprio abbiamo sempre a che fare con soggetti che invece la vedono solo come un'occasione di profitto, e questa è una battaglia che l'ambulatorio ha fatto sua da diciamo sempre di più da quando è nato, e su cui adesso ci troviamo proprio, mi viene da dire, cioè senza forse poi i veli che c'erano fino a qualche anno fa, perché appunto la pandemia da Covid-19 è stata dirompente da questo punto di vista. Ma si pensare a quello che è successo con la medicina di base qua in Lombardia durante il Covid-19, grazie, e anche al fatto che addirittura ci sono stati dei soggetti privati che hanno iniziato a proporre una medicina di base a pagamento, sempre per chi se la può permettere. E quindi ecco, andare a vedere come la salute sta diventando sempre più una questione di classe, crediamo sia una cosa importante anche per poi riappropriarcene. In questo senso, perché siamo ancora così attaccati alla questione dell'autogestione? Perché diciamo, può sembrare anche una cosa che adesso non tanti, ad esempio, si sentono di sobbarcarsi da questo punto di vista, perché l'autogestione ci ha sempre permesso di essere in prima linea su questo, cioè di vedere in prima persona le persone sempre più escluse dal sistema, che fossero persone senza permesso di soggiorno, persone in questione di difficoltà economica o con altre problematiche di accesso al sistema sanitario nazionale. E quindi l'autogestione, ecco, per noi continua ad avere un significato politico e anche un significato pratico, a maggior ragione davanti a quello che comunque stiamo vivendo con la privatizzazione sempre più spinta della sanità e con la chiusura anche di servizi, strutture. Non so se Sandra, tu vuoi aggiungere. No, hai detto mi sembra che hai detto praticamente tutto tu, aggiungo magari solo una cosa un po' più riferita, visto che anche un po' lui lo chiedeva, alla situazione che si sta un pochettino muovendo ora, probabilmente speriamo di non essere fuori tempo massimo, ma anche forse grazie a quello che tutti hanno avuto sotto gli occhi durante la pandemia e di come è stata gestita la pandemia, di come il fatto che la medicina territoriale e tutta una serie di servizi non ci fossero più ha inciso sulla salute delle persone, c'è stato un po' di sommovimento e quindi in qualche modo si stanno mettendo in campo delle cose, si stanno muovendo un po' di cose, si sono create in questi ultimi 2-3 anni delle reti di ambulatori come l'ambulatorio nostro, che comunque si tengono in relazione, si scambiano informazioni, mentre prima eravamo una realtà un pochettino, diciamo così, non dico quasi unica nel panorama nazionale, ma eravamo poche realtà, adesso diciamo su tutto il territorio ci sono realtà più o meno simili all'ambulatorio, e anzi con un passettino in più, perché l'ambulatorio continua a occuparsi prevalentemente di migranti, di non italiani. Quasi tutti gli altri ambulatori popolari o strutture simili che si stanno mettendo in piedi, che si sono messe in piedi negli ultimi anni in Italia, in realtà vanno a occuparsi soprattutto di italiani che non riescono ad accedere alla sanità, alle cure, perché sono fuori dalla propria portata, anche banalmente per un ticket. In questo senso comunque appunto sono partiti dei circuiti, ce n'è un altro relativamente recente in particolare a Milano e in Lombardia, che è quello della rete Tanta Salute. Abbiamo qui un paio di numeri dei bollettini che abbiamo prodotto con questa rete di sportelli, realtà, sindacalismo di base e anche singoli, che sta cercando di fare appunto un pochettino di coordinamento e di rete per provare a rompere un po' questo muro, questa cappa per cui tutti quanti siamo di fronte e vediamo benissimo il fatto che non riusciamo a curarci e la gente non riesce a curarsi, ma non si riesce a rompere quel qualcosa che fa andare oltre il livello di incazzatura soggettiva e la faccia diventare un lavoro di incazzatura collettiva e di rivendicazione. Qualcosa si sta muovendo un po', poi magari ne parliamo anche meglio dopo. Sì. Comunque insomma è qualcosa di importante, perché l'impressione che appunto lui parlava dell'iniziativa che c'è stata a Gallarate, se non mi sbaglio, quindi insomma mobilitazioni anche che muovono un numero di persone che prima magari sarebbe stato anche solo difficile immaginarselo, per cui bene, un po' tardi, ma mai dire mai, insomma vediamo anche queste mobilitazioni e questo fare rete che cosa porta. Niente, a questo punto direi vediamo il film insieme e lasciamo poi la discussione alla fine. Chiara magari ci dirà due parole sul film e poi chi vorrà proporre interventi, domande, il microfono è qua. Poi niente, buona visione del film a tutti. È sempre difficile parlare prima di un film. Io con Vittoria ho conosciuto l'ambulatorio popolare durante la lavorazione del film, non lo frequentavo prima e l'ho scoperto facendo ricerca su una zona di Milano, la zona di Via Padova, su cui durante una residenza dovevo fare una ricerca, un lavoro di approfondimento per scovare delle realtà che fossero interessanti e dessero una visione un po' diversa dal marketing cittadino, che in quel momento stava molto spingendo il quartiere dove l'ambulatorio popolare si è radicato, cambiandogli nome e inventandosi una nuova identità. E quando ho trovato l'ambulatorio, come ho trovato un rispecchiamento di alcuni pensieri che autonomamente stavo facendo e mi sono immersa in questa realtà con le difficoltà e le lentezze del caso e in un momento molto particolare. Io sono entrata per la prima volta in ambulatorio nel dicembre del 2019 e ho iniziato a cercare di capire come avvicinarmi a una realtà autogestita che per sua natura è molto complessa e ha iniziato la pandemia dopo pochi mesi, quindi questo processo è stato molto più lungo di quello che probabilmente sarebbe stato qualche anno prima, ma credo che anche per questo sedimentarsi e anche andare un po' a fondo e scavare un po' sia uscito quello che è uscito, ne parliamo dopo. Grazie. Abbiamo ancora il meraviglioso volantino di quando abbiamo occupato questo posto, ma non ci abbiamo messo la data. Vi devo dire che all'epoca si sbobinava un casino, si registrava e si sbobinava un casino, cosa che adesso secondo me non si fa più. Chi tocca? La macchina ha bisogno dell'uomo, però nel senso la macchina ha ancora bisogno dell'uomo e quindi il capitale assume negli uomini pagandoli meno e sfruttandoli di più. Insomma, chi sta dentro, chi sta fuori, no? La repressione contro il sociale serve per eliminare tutte quelle tendenze, appunto, che parlavo un'altra volta, che possono inceppare questo tipo di percorso. No, io l'avevo visto un po' diverso, cioè non è né un metodo, non è neanche uno strumento, non è un ambito. Ad esempio, io parto dalla realtà, cioè quando noi ci siamo detti donne, eccetera, allora abbiamo detto, ma come identità? Cioè, tu puoi avere a livello di contenuti, a livello di metodo e tutto il resto, però poi al di fuori, hai capito? Cioè, hai cercato di più grossi, che non puoi imparare proprio a essere presenti, cioè le cose che noi discutiamo qui, cioè, non dobbiamo tenere solo patrimonio nostro, per cui noi cresciamo e non le confrontiamo mai. Aspetta, metto la pausa. Lunedì, se va bene, ci sono pochi appuntamenti. Perché guarda, oggi ci sono già tutti senza appuntamento. Cioè, ho visto ce ne tanti gli appuntamenti. Ci saranno fuori anche, no? Che c'è c'è un foglio che non ho ancora. Che perché arrivo dopo che faccio il numero, stavo fatto 7 ore tirate per liberarmi. Che nuovi ospedali stanno esplodendo. Sì. Non sapevo neanche se riuscivo a venire perché sono a casa le bambine, vedete, se qui ci piazzano qualche bambino siamo a posto. Sì, tutto a posto. Allora, io ero qui a Milano, un mio amico che mi dice, vedi che la fabbrica da tintoria ti ha bisogno come carrellista, come molettista. Ho detto ok, sono andato con lì mio amico, una settimana dopo mi assuntano lì a lavorare. Dopo 2 anni da quella fabbrica lì, e mi sento manca appetito, cominciare a magrirmi. Allora c'è lì il nostro dottore, mi ha detto sali sul bilancio. Io salgo, mi ha detto vedi che hai perso circa 20 kg, hai perso. Quanto pesavo? Le ho detto io pesavo 80 kg. E lei mi ha detto fumi? E ho detto no, non fumo. Mi ha detto ok, domani portami la Cattaro, poi devi fare anche pipì un po', mi porti tutti. E ho detto ok. Quando io l'ho portato questa, il dottore mi ha detto vedi che avevi un pochino di TBC secondo me. Quando hanno fatto la bronzoscopia, lo sanno che io avevo TBC. Subito mi hanno preso, portavo l'ambulanza al Sondrio. Rientro, lavorato una settimana. C'è un signore, nostro capotorno, mi ha detto, Mahmoud, vai di là a lavorare. Io lo rispondo, gli ho detto, no, io là non ci vado, non è il mio posto. Poi il signor Mario mi ha detto, vai di là, se no in cancello. Poi sono arrabbiato, lo risponde, gli ho detto, cancello con pagamento. Chico mi ha chiamato, ha detto Mario ti ha chiesto di fare un lavoro, tu le hai detto di no. Le ha detto no, io non l'ho detto no. Le ho detto che mia salute non mi permette di lavorare lì, perché io sono pieno goriti. Loro questa cosa non se ne frega niente. Allora sono deciso di licenziarmi. Mi hanno fatto una lettera lì, non lo firmo. Ho preso, perché casa loro, perché la casa come fabbrica, ho preso il mio coperchio e tutto quanto, la mia borsa e torno a Milano. E verso il 2000 fino all'anno del 99. Armenia, Belgio, Corea, Gran Bretagna, Malesia, Messico, Siria, Sri Lanka, Santo Domingo, Argentina, Camerun, Cile, Etiopia, Francia, Gambia, Libano, Palestina, Serbia, Bangladesh, Bosnia, Eritrea, cinesi, cubani. Cubani, 4. Dice che sono in ordine con la clinica clandestina. La clinica clandestina, sì. Questo è solo 24 ore, non di nuovo. Barriere agli extracomunitari. L'Italia da anni ha ingresso zero, non trova argini contro i clandestini. Questo è le prime normative di che fermavano l'immigrazione. Un ambulatorio popolare dove potranno liberamente circolare tossicodipendenti, immigrati, anziani licenziati, poveri, cassa integrati. Il progetto va avanti, la proposta è partita dalla consulta cittadina sui diritti negati e si fonda su una constatazione politica concreta, una realtà sanitaria sempre più degradata e sempre meno accessibile da uno strato di persone ogni giorno più vasto. Ora è il momento di reperire una decina di milioni per adeguare i locali all'uso. Questa è l'inaugurazione, questo ce l'avevi? Sì, maggio. Non è firmato questo. Le note che seguono vogliono essere più che un'analisi dettagliata dei meccanismi che regolano il funzionamento dell'ambulatorio, un primo bilancio di questa esperienza, il tentativo di mettere ordine nero su bianco a tante idee sparse. Dopo quasi sette mesi di vita dell'ambulatorio popolare, tempo di verifica delle scelte circa un anno fa, nel pieno di un ballottaggio che avrebbe portato la Lega a Palazzo Marino, ci aveva portato a creare in questo spazio occupato un'esperienza autogestita di assistenza sanitaria e volontaria. Sì. Questa frase me la nostra fetta di assistiti a costo zero. Ti suona familiare? È tuo? No. Non scriverei così. Questo è un intervento dei primi di gennaio del 95. Una prima analisi dopo questi mesi di attività. Una bella analisi, mica male. Alfredo! Ma io avevo questa, dall'inizio, dalla frase e dalla lunghezza, avevo una quasi certezza dell'autore. Inizierò dicendo che dalla sera del mio primo intervento, Delirio Sfogo Menata, non ho sostanzialmente cambiato idea su molte dinamiche soggettive esistenti. Questa dialettica continua tra il soggettivo e l'azione che bisognava intraprendere. È un lavoro che secondo me ha sempre dato un grande contributo per avere una posizione collettiva comune e trovare appunto delle parole che potessimo tutti condividere. Allora, Roberto, mi dici il 3736. 3736, va bene. Cuando he comprado el billete en mi país, me han dicho, cuando arrive al aeropuerto, tú no vas ni primo ni último. Allora, como yo era primo, casi de los primos que era uscito del aéreo, andado al baño. Cuando he tornado, era último. E mi ha detto: posso aprire la valigia? Non riesco a sapere. E un poliziotto mi ha detto: lei sta male. Le ho detto: no, io sto bene. No, lei sta male. Deve andare all'ospedale, dobbiamo portare all'ospedale. Ho detto: però perché? No, che lei sta male e dobbiamo andare all'ospedale. Deve firmare qui. Mi hanno portato all'ospedale. Io veramente non lo sapevo perché. Pensavo che mi iba a ammazzar, come a ammazzar, no, a matar en español. Yo pensaba quello. Yo he pianto. Y le dije, pero ¿por qué me fanno questa cosa? Loro me han detto que era lavoro que loro non faceva sempre. Me ha messo en un letto. Un letto y me ha fatto. Yo, veramente yo no me ricordo, pero l'unico che so che è arrivato e dopo loro mi hanno detto è pulito, no? È pulito. Dopo che hanno guardato come è il risultato, mi hanno detto che era pulito, basta, no? E lì è che ho capito che era per la droga. Io prima non lo sapevo, non lo sapevo per che cosa. Dopo he saputo que era para ver que yo aveva, si portaba droga en el estómago, en la pancha, ¿no? Neanche fargli capire cosa gli stai chiedendo, le volte fanno anche fatica a spiegarti il sintomo per cui vengono qua, il problema a me. Vabbè, comunque io sono d'accordo, io glielo dico sempre, guarda, ti facciamo delle domande perché ci interessa capire il tipo di persone che vengono qua, che situazioni vivono, i dati, non c'è neanche il tuo nome sulla scheda, non ti per... Ma poi è vero che alle volte a me, quando devo insistere per farmi dire se nel paese dove era viveva comodo, se aveva, anche alle volte a me, ma è un mio limite, l'ho sempre detto, no? Cioè un pochino mi mette a disagio, certe volte. Però è importante mantenere un minimo di elasticità. Ecco, infatti. Deve essere percepito quel questionario come una guida. Sì. L'importante è spiegare che ci sono delle informazioni che sono utili. Perché poi le condizioni di vita sono quelle che determinano, certo, anche le condizioni di salute, per esempio, mi viene in mente la scolarità, cioè la cosa importante è avere un'idea di quanto abbia studiato, perché noi abbiamo gente che che è semianalfabeta e gente che magari fa lo stesso lavoro, stesso lavoro che vende i fiori, ma ha una laurea, per cui... Cioè, nel senso di dire, tra le cose che gli voglio chiedere a questa persona la prima volta che viene è dove vive, che lavoro fa, come viveva prima, come vive più o meno ora, qual è la sua posizione amministrativa. La scheda ci serve solo per ricordarci che quelle cinque cose le vogliamo sapere, sì, chiedere. Se poi, tra l'altro, una persona non vuole dirtele, cioè, appunto perché non siamo inquisitori, non sappiamo dirle, cioè. Ma nessuno costringe nessuno a dire niente, non vuoi dirci niente, io mica scrivo nulla, Cioè per la visita fai lo stesso, mica sì, ti dico di no. Il grosso limite non è tanto questionario, è proprio che la privacy, perché quando sei qua e c'è 5-6 persone intorno, bisognerebbe andare a spostarsi, a fare il colloquio. Però no, quello che e secondo me è interessante è quindi bisogna essere in due qua, perché appunto uno non puoi lasciare qua aperto. Ma non ci siamo davanti. Lo so, però bisogna trovare. Non ce la facciamo proprio. No. Adesso come adesso effettivamente come diciamo non ce la facciamo. Cioè, non abbiamo... Perché più che altro non riusciamo a affrontarci. Fai fatica a programmare, sarò da sola, saremo in due, cioè capito? Già la questione di sabato per fortuna c'era Giulia, perché io non potevo proprio, cioè una volte non è facile avere una seconda persona. Anche quello che si dice di là si sente di qua tutto, però c'è un separé mentalmente. Dice, ma se facessimo un piccolo apri e chiudi, no, un bordello. Wow. Sì, un paraventino piccolino, una cosina che si mette lì. È vero che però se sei da solo in accoglienza perdi il controllo. Fai trasparenza. Comunque non è male adesso, al di là di tutto, sei persone, quando abbiamo fatto un sacco di giovedì sera dove non si palesava nessuno, è stata una buona scelta. Evidentemente il sabato va mattina va meglio. Il sabato va meglio e soprattutto c'è anche stata anche più continuità. Sì. Siete stati anche più bravi a garantire una presenza il sabato, che sì, il giovedì non sempre era stata. Però beh, è già un bel successo, 5-6 mesi. Sì, dobbiamo capire un attimo l'organico. Sì. No, per me come cosa è positiva. Io approfitterei di questa campagna che stiamo facendo per lanciare dei ganci e vedere se c'è qualcuno che ci vuole. Io assolutamente. Thank you. in questo momento se uno va a chiedere una visita specialistica sono mesi e mesi d'attesa, eppure l'attività privata in Carmegna continua a funzionare, eppure l'attività delle piccole e grandi strutture private vagano fedele. Questo è inaccettabile. Abbiamo invitato a partecipare a questa assemblea realtà che da anni si occupano della salute di quei lavoratori che, non potendo accedere al Servizio Sanitario Nazionale, hanno potuto contare sulla solidarietà e l'impegno di molte compagne e compagni. Oggi facciamo un paio di interventi. Una cosa su cui volevo parlare, iniziare a parlare io, essendo che sono diversi anni che raccogliamo esperienze di malasanità o comunque difficoltà all'accesso alle cure, in particolare di persone migranti, ma sempre più spesso anche di italiani. Quanto incide sul tempo di guarigione e sul percorso di cura il sentirsi in una condizione appunto di umiliazione, di disagio, di essere appunto un numero, un corpo, di, no? Che parte ha nel tuo percorso di guarigione? Anche perché è più facile che poi avvaluare proprio il percorso di cura. Parlo senza aver studiato da medico, ma non c'è, io non ho mai sentito una grande attenzione alla persona dal personale sanitario, cioè mi sono sempre vista come, non so, come dire, un corpo da curare per il problema che avevo o da esaminare, ma poca... No, su questo volevo far dire una roba anch'io, perché il problema molto spesso, e qua parlo per esperienza personale, sia da studente sia poi da lavoratore, se tu vai dal tuo capo e gli dici sì, ma io voglio avere la possibilità di fare questo, questo e questo in questo modo, lui ti dice il numero che abbiamo si può fare. Quindi, però scusami, se uno dicesse per fare questa professione ci vogliono tot ore, che ne so, per paziente, assumerebbero più personale, invece tutto quanto si tiene sul risparmio probabilmente. Sì, il personale sia medico che... A cosa deve servire un sistema sanitario? Deve servire a soddisfare un bisogno o deve servire a far soldi? Deve servire a far soldi, adesso è così. Sulla sensazione di sentirsi malato, di stare bene o non stare bene, io personalmente mi è capitato di sentirmi meno malata quando io avevo una diagnosi di una malattia specifica, piuttosto che quando ho qualcosa che non so che cosa mi succede, che non capisco e mi sento più malata in quel caso. Io te lo dico da medico e da paziente insieme, cioè io prendo due farmaci, una combinazione di due farmaci per l'ipertensione, però non mi sento malato. Cioè se uno mi dicesse sei malato, io però questi li prendo e posso fare a meno di prenderli. Sono costretto perché se no ho una minima che va a 120 e quindi non sono costretto a prenderli, per cui, però ho un'attività lavorativa, sportiva, ho giocato a calcio fino a quando avevo 55 anni e poi casualmente due anni fa mi è capitato di provare, di testare uno sfigomanometro e dire no, non funziona perché da valori mi sono provato una volta, per cui prova a sentirmela con l'orecchio. Bilancia, no, è rotta, non posso pesare così tanto. È andata così. Per cui vabbè, da allora, per cui, però se uno mi chiede se sono malato, non so, direi di no. Uno. Allora, sì, invito appunto di nuovo le compagne dell'AMP e Chiara al tavolo. Scusate, spero che... se, scusate se... Aspetta, queste sono... Qua è un po' bagnata. Pietro, mi porteresti della carta, gentilmente, dello Scottex, se c'hai? Che asciughiamo un attimo la sedia. Vabbè, niente, allora, innanzitutto complimenti Chiara per il film e complimenti ovviamente all'AMP per il vostro lavoro. Io volevo, prima di tutto, tu avevi già fatto un'introduzione prima del film e volevo chiederti appunto se potevi brevemente... adesso stiamo arrivando con la carta. Sì, grazie, scusate. Volevo chiederti, Chiara, giusto se potevi riassumere in due parole il tuo incontro e più che altro la genesi, cioè il momento dell'idea del film, nel momento in cui tu hai incontrato l'AMP, in qualche modo. Sì. Diciamo che questo progetto è nato all'insegna dei limiti. Nel senso, di varia natura. Il primo, su cui ci siamo confrontati subito con i compagni dell'AMP, è stato come si fa a filmare in un posto che è frequentato da persone che tendenzialmente non hanno i documenti. Non hanno i documenti per richiedere il medico di base, ma spesso anche per non hanno... permanenza legale sul territorio italiano e quindi diciamo come fare a tutelare la privacy ma anche la sicurezza delle persone che frequentavano quel posto, che avevano il diritto di frequentare quel posto e allo stesso tempo cercare in qualche modo di raccontarlo. E questo io ho passato i primi mesi che ho passato all'AMP li ho passati nella sala d'aspetto, ho ascoltato tantissime conversazioni, ho assorbito anche il modo di lavorare ho assorbito anche il modo di lavorare che avevano costruito negli anni le persone all'AMP e mi sono domandata come fare a raccontarlo. Per fare qui, diciamo, il momento che ha fatto in modo... la tutela delle persone che frequentavano l'ambulatorio l'ho ottenuta semplicemente mantenendo senza volto le due testimonianze che sono nel film diciamo limitando grandemente le riprese dell'attività dell'ambulatorio ai momenti che per me poi mano a mano che conoscevo di più l'AMP scoprivo centrali, cioè le assemblee. Anche per girare nelle assemblee comunque c'è stato un percorso molto lungo, ma mi sembrava che quel momento lì fosse irrinunciabile per capire la natura di quel progetto che si racconta ed è ancora orgogliosamente autogestito. Il momento di grande svolta del film è stato quando Sandra mi ha detto: in quell'armadio ci sono trascritte le assemblee degli ultimi 30 anni. Se vuoi puoi aprirlo, non lo apriamo da 10 anni, vai. E io ho passato un po' di tempo a farmi fotografie di un sacco di documenti che c'erano e poi a spulciarmeli a casa, a studiarmeli. Ed erano effettivamente, c'erano anche alcune cassette che si sentono all'inizio del film di una... Proto AMP, un'assemblea di donne che il collettivo di donne che poi ha dato vita alla consultoria. Esatto. di inizio anni 90, forse fine anni 80 addirittura, e poi la sbobinatura, o comunque i contributi che i diversi attivisti dell'AMP dei primi anni portavano in assemblea, che erano tutti trascritti o scritti perché venivano letti o comunque portati in assemblea, ed erano stati tutti archiviati assieme ai volantini delle iniziative, a un sacco di ritagli di giornale. C'è stato un momento in cui veniva fatta una rassegna stampa su diverse tematiche, non solo su che cosa veniva detto dell'AMP, ma anche c'era una consulta sull'immigrazione, c'erano diversi, diciamo, gruppi di studio sulle nuove leggi che venivano discusse in Parlamento, e quindi, diciamo, ho cercato di orientarmi dentro questo mare di documenti, facendo un percorso, io con Vittoria, un percorso personale, provando a scrivere una sorta di copione che ripercorreva dalla data di inizio dell'AMP, che è la prima, diciamo, il primo contributo che si vede, i titoli gialli, diciamo, sono tutte parole che ho trovato in questo armadio, parole del volantino, dell'apertura, ma proprio della convocazione che venne fatta per della call per i volontari, per attivisti che venissero a dare un contributo, fino a comunque le complessità che ogni realtà autogestita o quella realtà autogestita ha dovuto affrontare, cercando anche di fare dei parallelismi fra quello che accadeva a fine anni 90 e quello che si sentiva, e degli echi che sentivo in assemblea oggi. Questo è un po' il mix. Ok, io poi ti volevo chiedere un'altra cosa che riguarda invece un po' il linguaggio che tu hai usato poi per raccontare questa storia, il film. Perché penso che in qualche modo tu con la tua camera sia diventato un altro personaggio all'interno del film, almeno, e che tramite alcune idee che sono presenti, come per esempio l'uso del materiale d'archivio o anche alcuni magari aggiustamenti di camera in ripresa, no? Io penso, a me piacciono molto, penso siano molto belli, perché denotano appunto una presenza al di là del fatto di una mera camera invisibile che riprende in qualche modo e crea una sorta di altro personaggio. Quindi volevo chiederti un po' di più rispetto a questa cosa, a questo tipo di approccio, soprattutto anche sulla scelta dei materiali d'archivio che tu hai poi inserito durante i voiceover delle due testimonianze. E poi volevo chiedere anche un'altra, cioè poi sempre legata a questa domanda, appunto, volevo chiedere la presenza invece di Chiara nell'ambulatorio durante la fase operativa, a voi in qualche modo. Allora, sugli materiali d'archivio, questo è un lavoro a quattro mani, un po' particolare perché sono andata da sola. Cioè, sono sempre andata da sola in ambulatorio. Vittoria, soprattutto in quel periodo, lei abita a Sassari e non è mai venuta a Milano. L'abbiamo girato nel 2021. Sì, il film è una coregia tua e di Vittoria Soddu, di un'altra ragazza che è adesso a Sassari. Che ha fatto, diciamo, quindi io ho fatto le registrazioni e poi c'è stata tutta una parte di elaborazione e poi ovviamente il montaggio che abbiamo fatto a distanza e a cui Vittoria ovviamente ha messo grande mano, oltre ad aver curato tutta la parte di paesaggio sonoro e di ricerca di archivi. Lei aveva già lavorato con l'archivio in una precedente esperienza e è andata appunto a cercare in questo archivio aperto della collezione Prelinger dei filmati che avessero, diciamo, che provenissero dall'ambito medico cercando anche di, diciamo, toglierne la fascinazione vintage utilizzando il negativo, come, diciamo, per sottolineare queste storie, cioè, diciamo, nell'invisibilità di queste storie, provare a farla uscire fuori in una luce differente. mentre per gli errori che ti piacciono di camera, cioè le decisioni in corsa, non lo so, anche a me non dispiacciono, tendenzialmente non sono assolutamente calcolati. Giravo con una camera che non ero capace di usare, quindi gli aggiustamenti di fuoco, ero sola perché non era abbastanza difficile già essere soli, cioè ero già abbastanza ingombrante da sola, non avrei mai portato nessun altro all'AMP a lavorare con me. E quindi sono venuti perché spesso sono decisioni in corsa, sono state tenute, non so se c'è una motivazione razionale per cui le abbiamo tenute. Per me poi da quello che vedo poi nel film sono diventate idee in qualche modo. Mi viene, per esempio, il momento in cui tu metti per esempio il paraluce sulla camera nell'obiettivo e vediamo è diventata una transizione. Sì, perché poi a un certo punto c'è questo comizio che, se non sbaglio, era in zona Lambrate, davanti all'Esse Lunga di Forlanini, e c'è lui che parla, a un certo punto c'è il silenzio, no, dell'ambiente, e questo gesto e questa cosa della camera, no, crea un altro personaggio poi nel film. Invece, rispetto alla presenza di Chiara Di Vittoria, penso a dentro l'ambulatorio, com'è stato? Beh, le abbiamo reso la vita abbastanza difficile, diciamo così, nel senso che realtà come la nostra si vivono poi. Allora, passettino indietro, ho visto anche uno degli altri filmati che ha fatto una delle tue compagne di residenza, quello su Giambellino forse, che secondo me lì ha avuto anche più problemi lei che tu da noi, però è un po' nella storia delle cose che in realtà come la nostra, un po' che dobbiamo tutelare, come diceva lei prima, la privacy, l'identità e il rispetto per le persone che si rivolgono da noi, un po' perché molte delle persone che attraversano realtà come le nostre, essere ripresi e rimanere in pellicola nelle proprie dichiarazioni, in una propria assemblea, eccetera, può costituire una difficoltà, un problema, uno scoglio non sormontabile oltre il quale non si può andare. Per cui questo, allora, il problema della non filmabilità dei pazienti, il problema di persone al nostro interno che avevano delle difficoltà o delle precise non volontà di essere riprese durante l'assemblea, ha complicato decisamente le cose. Dopodiché io devo dire che lei a un certo punto è diventata una presenza molto discreta, nel senso che non ci si accorgeva neanche più che lei ci fosse a fare riprese, perché è una cosa che è durata tanto e quindi dopo un po' era diventata parte dell'arredamento dell'ambulatorio, era lì, riprendeva. No, infatti lo chiedevo perché mi sembra evidente quasi a un certo punto del film che proprio non c'è, la camera è quasi invisibile. Sì. Ma credo che sia anche frutto del fatto che appunto poverina è dovuta stare lì dentro parecchio, un po' anche per le condizioni oggettive, sì, anche senza camera in alcuni casi, un po' anche per le condizioni anche oggettive, perché come ci vedete lì tutti mascherati, era il periodo in cui stavamo tutti mascherati, poi dopo ci siamo rilassati un attimo, però in quelle assemblee era, e anche Andrea Bardato, insomma, di tutto punto nel momento in cui, da Palombaro, nel momento in cui doveva occuparsi dei pazienti. Per cui c'era questa tre situazioni difficili insieme, diffidenza più o meno giustificata o comunque volontà di preservare la propria individualità e non mettersi in gioco, necessità di tutelare le persone che venivano lì e la pandemia che ha avuto anche lì il suo, per cui è stato un percorso lungo, decisamente. E quindi dopo un po' appunto una si fa tappezzeria. Cioè, il logoramento. Allora, Io non so se c'è qualcuno di voi nel pubblico che vuole fare una domanda, e vi chiederei gentilmente se volete di alzare la mano, magari facciamo venire qui perché non possiamo staccare i microfoni. Però in ogni momento, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, è più che invitato. Prego, vieni. Ciao. No, io volevo sapere chi era stato a scrivere i testi. Perché sono molto, cioè erano molto intensi e interrogava proprio una, cioè delle questioni che sono all'ordine del giorno. Allora, in uno dei casi l'abbiamo ricostruito perché c'era una firma in calce al documentone che dell'archivio del materiale proposto alla discussione, ed era un documento di Alfredo e di questo avevamo firma. Ma devo dire la verità, degli altri non ho memoria, anche volendo ricostruire io, vabbè, faccio parte dalle origini dell'ambulatorio, volendo ricostruire posso anche attribuirlo a una o all'altra persona, però devo dire la verità che poi ero comunque, a prescindere dal fatto di chi li avesse proposti, poi diventavano parte. Perdonami, scusa, mi sono sbagliato, non è chi nel senso personalmente, cioè sono testi collettivi che sono stati scritti in passato e recuperati dagli archivi, no? Questo. Sì, sono okay. Testi proposti alle discussioni interne dell'ambulatorio dagli singoli partecipanti alle assemblee, o in qualche caso anche un lavoro magari di gruppo, non necessariamente di un singolo. Però c'era proprio questa pratica di arrivare alle assemblee, soprattutto quelle magari un po' in cui si faceva bilancio dell'esperienza, eccetera, con dei materiali che ciascuno proponeva scritti e che venivano distribuiti e che venivano poi discussi e valutati e ripresi. Sì, soprattutto c'era quella questione del rapporto tra il volontariato sociale e l'azione politica, cioè quella è tutto il Covid, tutta la parte del Covid è stata centrale comunque. È molto precedente, molto... comunque. Sì, quella perché parte... infatti leggevo, c'era scritto 91. Sì, sì, quelle documentazioni lì arriviamo alla fine degli anni 90. Sì. O poco oltre, secondo me non oltre. Sì, perché cioè quando c'è la scena in cui Sandra e un'altra Annalisa, ex dell'AMP aprono quell'armadio e si vede che sfogliano, quello è l'archivio. Tutti quei faldoni sono l'archivio, lì dentro sono archiviati. Tutti questi sono dei report di. Ci sono dei report di assemblee scritti a mano su carta del pane, oppure delle cose molto ordinate che erano appunto quello che diceva Sandra, gli interventi di ciascuno degli attivisti di quel momento, non firmati, spesso non datati. Che se a un certo punto sono stati archiviati in quel momento avevano una data, ma altrimenti no, e che arrivavano fino a che non hanno iniziato a scambiarsi mail, quindi che sono stati stampati fino all'inizio degli anni 2000 e poi basta. Quindi tutti i testi gialli vengono da, sono tra l'inizio dell'AMP e la fine degli anni 90. Scusate, ci dobbiamo rinterrompere un attimo perché ha iniziato a piovere, quindi per salvare i microfoni dobbiamo un attimo spostarci sotto l'ombrellone, vediamo se riusciamo a fare sta mano. Le sedie, tutto in divenire, in trasformazione stasera, cioè tutto una metamorfosi, il palco si trasforma costantemente, vabbè, però mettiamoci più in qua per... mettiamoci qua, questo lo possiamo provare. Proviamo. Siete tutti al coperto. Siete tutti al coperto? Sì, prima. Cioè, avete risposto a come è stato in divenire avere la presenza di Chiara e, lì con voi, ma una volta finito il film, come è stato invece rivedervi? Quindi quella cosa, per esempio, che tu, Sandra, dicevi, sapere di fare un'assemblea e poi avere la propria voce durante un'assemblea messa lì, registrata, come, quali sono state le sensazioni nel riascoltarvi e vedervi, e allo stesso tempo se questa cosa è stata negoziata, cioè se c'è stato una pre-fase, non lo so, in cui anche voi avete preso parte alla decisione di che cosa mostrare, che cosa no, del girato, comunque del montato, com'è andata, com'è stato questo processo da entrambe le parti. Ma sicuramente c'è stata una negoziazione pre-ripresa delle assemblee, per cui delle persone che non volevano essere riprese non hanno partecipato. Questo per il pre. È stato anche sì, anche sui temi. Stato anche, mi viene da dire, anche un peccato, perché c'è stata un'assemblea che lei non ha ripreso, forse ripresente senza camera, in cui sono uscite delle cose molto interessanti che poi abbiamo in qualche modo anche tentato di riportare e ricostruire nell'assemblea poi in cui lei, perché erano veramente degli argomenti che sarebbe... È stato un peccato non aver ripreso in quel momento lì. E rivederli dopo, è sicuramente interessante, perché serve alla documentazione, no? Per cui la misura di quanto la discussione prosegue, va avanti, si incista sulle stesse cose, non va oltre, e invece magari alcune cose sono state assolutamente profetiche, se penso a alcune cosucce che sono poi nei titoli gialli, che sono state scritte quando ancora eravamo lungi dal vedere come sarebbero andate le cose, soprattutto in Lombardia. Poi una considerazione mia che non c'entra molto, ma me l'ha fatta venire in mente la tua domanda, che io questo film l'ho visto credo 4 volte, forse 5, e oggi ci ho visto ancora delle cose nuove che non avevo visto in precedenza, per cui è anche questo comunque un lavoro in divenire, perché Posso aggiungere una piccola cosa. Quando è nato l'ambulatorio io ero alle elementari, quindi ci sono delle fasi che, per come dire, anagrafica, non ho vissuto, e quindi guardandolo la mia è stata un'emozione molto positiva, perché comunque mi ha dato anche proprio cioè anche il senso della storia poi del posto di cui faccio parte, e che, come dire, è vero che c'è l'archivio eccetera, però diciamo vederla, come dire, rimessa in file, un po' anche un po' riassunta in questo modo, mi è piaciuto molto, ecco, mi ha proprio dato un po' il senso della storia del posto. Io a questo l'avevamo, diciamo, era già emerso quando abbiamo fatto anche un'altra presentazione, quella dell'anno scorso a Vicenza. Devo dire, sono anche molto contenta della scelta di Chiara e di Vittoria, appunto, di parlare non solo del nostro posto in quanto realtà che viviamo, ma anche poi della realtà nel posto di Milano in cui siamo, quindi un quartiere che ha subito una fortissima gentrificazione e di tutto quello che ci sta intorno, ecco, andando poi a riprendere appunto delle cose di archivio che ad esempio io non avevo avuto occasione di vedere in tutti questi anni in ambulatorio, perché è vero che sono lì, però magari non abbiamo dei momenti in cui andiamo proprio a riprendere cose che sono state scritte da chi c'era all'inizio. Non è neanche facile poi ridare anche la complessità di una realtà come la nostra, perché poi non tutti veniamo dallo stesso percorso politico, veniamo da storie differenti, quindi questo capita anche quando ad esempio c'è qualcuno che vuole raccontare di noi, ad esempio anche tramite un'intervista o altro, ed è il motivo per cui siamo sempre molto... molto sì... diffidenti, ma anche perché poi credo che tutti noi poi teniamo al fatto che la complessità del nostro essere collettivo poi venga fuori in queste cose, e riportare una voce di tutti, cioè, non è mai poi una cosa scontata, ecco. Quindi non so, ecco, poi non so se vuole intervenire anche qualcun altro dell'ambulatorio, visto che non siamo qua solo in due. No, però ecco, la mia è stata un'esperienza molto positiva, ecco. Poi mentre Ale parlava pensavo che io il lavoro nell'archivio c'era tantissima roba, il lavoro che di selezione, perché alla fine sono, se li metti in fila due cartelle di testo, il lavoro di selezione non l'avrei potuto fare, cioè non avrei potuto fare quel lavoro di selezione senza avere frequentato l'ambulatorio e l'assemblea del collettivo per mesi. Quindi diciamo sì, per quanto ci fossero 30 anni di distanza, si sono parlati per le somiglianze e le differenze che c'erano, però ho cercato anche delle cose che riverberassero un po' in quello che vedevo oggi, ma sarebbe possibile scrivere altri 5 film da quel materiale diversi. Allora, il film è stato un po' anche un appello a tutti coloro che lavorano nell'ambito della sanità. Ad oggi effettivamente in qualche modo avete avuto beneficiato di alcuni miglioramenti o di cambiamenti nell'AMP? Ma in seguito al... Esatto, sì, in seguito al film. Oddio, allora, in seguito al film non saprei onestamente, nel senso che ci sono delle persone che si sono, diciamo, avvicinate dal 2021 ad adesso, però credo che poi i canali siano sempre stati più o meno di conoscenze poi personali, se correggimi se sbaglio. Sicuramente diciamo, le volte che abbiamo presentato il film sono state delle occasioni per diciamo discutere ancora un po' la motivazione per cui siamo ancora aperti, cioè che cosa ha spinto le compagne e compagni ad aprire il posto e che cosa poi spinge noi a farne ancora parte. Però poi ecco, non so neanche se possa essere, cioè non mi fraintendere, cioè non so se possa essere questo poi un motivo di avvicinamento a entrare a far parte dell'ambulatorio. Ma non perché non sia carico di contenuti, ma perché, questa diciamo, è una riflessione che stavamo iniziando a fare, c'è cioè anche un po' il fatto che noi siamo ancora un po' sottogestito. Adesso è un po' difficile trovare delle persone che vogliano entrare a far parte di un progetto di questo tipo. Perché, ad esempio, se vuoi fare il volontario, comunque ci sono anche tantissimi altri posti dove farlo senza anche doverti, come dire, poi prendere in carico tutto il resto. per chi non lo sapesse, noi appunto, come forse avete intuito, facciamo sia una parte che è l'ambulatorio sportello tra virgolette, per cui il lunedì, adesso anche il giovedì e il sabato mattina ci sono i medici che fanno le visite, chi di noi sta in accoglienza e così via, e poi lunedì sera c'è la nostra assemblea politica. Quindi, come dire, non, l'ambulatorio è un po' difficile da vivere se diciamo pretendi di fare, come dire, delle ore da volontario tra virgolette. Cioè c'è anche tutto un posto dietro, ecco, che è necessario portare avanti, e le assemblee politiche sono una parte preponderante del nostro progetto. E questo non è escludente verso chi magari dice sì, voglio magari venire a dare una mano, però poi non me la sento di partecipare anche alle assemblee politiche. E però, come dire, alla fine tutte le persone che sono rimaste dentro l'ambulatorio poi inevitabilmente hanno iniziato a far parte anche delle assemblee politiche, perché non è un posto gestibile con volontari, di fatto. Cioè, non so se mi sono espressa, Sandra, però... cioè, nel senso, non è un posto da volontariato e basta, quindi è un impegno sicuramente più grande, cioè non nel senso di, cioè non lo sto dicendo in senso giudicante verso chi sceglie altre forme di partecipazione, però sicuramente è una cosa diversa. Questo film è del 2021. Adesso siamo al 2023, volevamo sapere dal vostro punto di vista particolare come in questi due anni, come sono andate le cose da un punto di vista della sanità, il clima politico a Milano. C'è continuità, a livello nazionale è cambiato, sono cambiate anche certe cose sull'accoglienza dei migranti. Volevo un po' capire come state vedendo voi questi due anni dal vostro osservatorio. Ma allora inizio io, poi sicuramente dovrete integrare anche voi. Allora, da un punto di vista, diciamo, sanitario, non abbiamo visto dei miglioramenti. Per quanto mi sembra anche scontato dirlo, non abbia simpatie per il governo in carica, c'è anche da dire che, diciamo, la sinistra poi non è che abbia fatto poi politiche diverse rispetto alla sanità, perché e mi verrebbe da dire anche rispetto ai migranti, perché ricordiamoci tutti che comunque prima di Salvini c'è stato Minniti, che, come dire, ha aperto abbastanza la via a tutto un certo tipo di gestione delle persone che arrivavano principalmente anche come richiedenti asilo. Cioè Minniti è stato il primo a dare delle strette poi su questo, quindi non so, per me quello che è successo dopo Minniti, c'è una persecuzione di quello che ha iniziato lui. Minniti non era della Lega. Quindi non lo so, ecco, sicuramente non abbiamo visto delle cose in meglio, però io non so quanto la legherei a una questione di partiti, perché bene o male anche il centrosinistra non ha fatto delle cose diverse, quantomeno da quello che abbiamo visto in Lombardia dal punto di vista del dare spazio comunque a un certo a tutte forme di privatizzazione. Poi non so nello specifico magari in altre regioni, quindi diciamo parlo da Milano, quindi non mi permetto di fare altri paragoni. Sicuramente c'è stato un peggioramento sensibile, questo diciamo lo abbiamo visto, cioè, dopo il Covid di fatto non c'è mai stata poi un vero e proprio momento di ripensare a una sanità pubblica. Lo fanno, diciamo, da un punto di vista più istituzionale pochissime fondazioni, mi viene in mente il GIMBE, che comunque è una delle poche che diciamo insiste su appunto l'importanza di avere un servizio sanitario nazionale. Lo facciamo in, appunto, Sandra prima parlava di, diciamo, tutti i gruppi che si stanno attivando sul tema della salute, l'importanza dell'avere un servizio sanitario nazionale che funzioni realmente. Diciamo che collateralmente a questo, un po' la nostra riflessione negli ultimi anni diciamo ci ha portato a come dire, cercare un po' di andare a sviscerare molti nodi critici che però ci sono anche nel sistema sanitario stesso, perché comunque diciamo, la gran parte di posti pubblici vengono di fatto poi gestiti come delle aziende, e quindi il ragionamento politico alla base non dovrebbe essere solo di parlare di pubblico, ma cioè anche di che tipo di pubblico vogliamo, di cosa vuol dire cura per noi, che cosa vuol dire per noi la salute. E tutte queste, per carità, parliamo di salvare il servizio sanitario nazionale, però poi politicamente per noi c'è anche altro, cioè non c'è solo l'istituzione, non so come dire. E questo, diciamo, al nostro interno, devo dire che abbiamo, non solo noi come ambulatorio, perché poi all'interno dell'ambulatorio negli anni ci sono stati anche diversi gruppi che utilizzavano i nostri spazi per fare assemblee, per fare attività, con cui abbiamo avuto anche poi dei pezzi di strada insieme. Mi viene a pensare ad esempio alla consultoria che adesso ha riaperto. Questo ad esempio in consultoria, diciamo, nelle sue diverse fasi è sempre stato un tema molto sentito, no? Cioè, parliamo di cura, parliamo di salute pubblica, però cioè, sono anche dei concetti che andrebbero risignificati politicamente a un certo punto, perché se il pubblico poi mi ragiona dal punto di vista della cura esattamente come il privato, quindi guardando ad andare in pareggio o comunque guardando a una questione di profitto, e comunque anche lì c'è qualcosa che non va. Poi sì, dal punto di vista della privatizzazione direi che non siamo migliorati, anzi se andiamo a vedere poi l'offerta del privato in Lombardia è un'offerta che appunto si sta spingendo al medico di base a pagamento, che comunque sta prendendo sempre più pezzi di quello che dovrebbe essere un tema pubblico. Prima citavo anche la questione del PNRR, cioè alcune regioni, quindi qua usciamo dalla Lombardia, hanno anche fatto dei protocolli d'intesa con delle aziende farmaceutiche per parlare di epidemiologia, cioè, e l'epidemiologia dovrebbe essere una cosa che tu fai come Stato, come servizio sanitario pubblico, andando a vedere quelli che sono i bisogni della popolazione. Non dovresti avere bisogno di chiamare dei privati per fare un'epidemiologia, anche perché gli stai dando una grandissima opportunità in termini di profitto che possono fare. E a me, penso anche alle altre compagne qui presenti, sembra che invece cioè, ci siano, come dire, sempre più attori che invece cercano di mangiarsi dei pezzi della torta sostanzialmente. E poi nello specifico sulla questione dei migranti, appunto, anche lì io non lo so, ecco, devo dire, forse in Lombardia una delle cose che, diciamo, un commento che ci siamo fatti da un anno a questa parte era: quando è iniziata la guerra in Ucraina sono state messe in atto delle cose per le persone che arrivano, giustissimamente messe in atto delle cose, perché non si sono fatti per tutti gli altri profughi e per le persone che arrivavano da altre guerre. Cioè, se l'hai messo su in 2 settimane, vuol dire che lo potevi fare in 2 settimane anche per gli altri, e non hai mai avuto la volontà politica di farlo. E ancora adesso, infatti, cioè, penso che le uniche cose siano rimaste per chi arrivava dall'Ucraina, ma poi non... Una roba abbastanza iniziale che adesso sta mostrando già i suoi limiti, gli hanno già tolto da sotto il naso quello che gli avevano fatto vedere. Aggiungo solo una cosa, rischio di essere banale, si è persa una grandissima occasione in corso Covid, che è stata nel momento in cui il disastro si è mostrato in tutta la sua ampiezza e con perfetta evidenza tutte le sue cause. Ed era un momento in cui lo sfracello che era stato fatto della sanità, in particolare della sanità lombarda, era evidente ed era, come si può dire, non si poteva mettere in discussione né smentirlo. e il momento anche in cui il privato invece era in difficoltà, perché all'inizio, nei primissimi mesi della pandemia, il privato era inattivo, non ha fatto niente, non metteva nemmeno a disposizione posti letto. E quello sarebbe stato il momento in cui, se ci fosse stata una forza collettiva un po' ampia e con un pochettino di preparazione, perché poi noi eravamo impreparati tutti, sarebbe stato il momento per poter fare delle cose o dirle quantomeno. Noi nel nostro piccolissimo ci abbiamo provato con una campagnuccia, chiamiamola così, che ribaltava il luogo comune: quando c'è la salute c'è tutto. Noi abbiamo fatto questa campagna con un grosso virus in copertina, in cui dicevamo: quando c'è tutto c'è la salute, declinando questo tutto, cioè questo tutto c'è quando ho la casa, quando posso studiare, quando ho un reddito. Insomma, abbiamo declinato in una dozzina di modi quale di questo tutto serviva a far sì che si stesse in buona salute. E il privato invece era bello pronto, e dopo questo primo attimo di smarrimento in cui sembrava aver perso terreno e dimostrare tutta la sua inutilità, hanno visto bene subito come fare per fare subito di nuovo bene i soldi anche sul Covid, e soprattutto ora si vede come non c'è stato nessun ripensamento dal punto di vista politico di fare un passo indietro sullo smantellamento del servizio sanitario pubblico, e il privato appunto marcia alla stragrande con guardia medica privata, medico di base privato, e da questo punto di vista hanno fatto passi da gigante velocissimi, soprattutto nell'ultimo anno. Si vedono in giro cose che noi che ci siamo dentro bene e vediamo le pubblicità sulla metropolitana eccetera di questo tipo di servizi, si soffre, perché una delle cose che ci ripetiamo nelle nostre discussioni, in cui esce la domanda che esce sempre: ma perché la gente non si incazza nel momento in cui non si può curare, c'è un appuntamento a 6 mesi, se va bene un anno e mezzo. Io per esempio, ma una cosa che ci dicevamo in ambulatorio spesso, è il privato sociale, facciamo anche i nomi, Sant'Agostino per dire, che ti offre una prestazione a un prezzo poco più del ticket. Per fare un esempio, una visita che ho prenotato io adesso con il pubblico mi sarebbe costata 56 euro, con Sant'Agostino 70, con tempi molto molto molto veloci rispetto alla sanità pubblica. Chi ancora quei 70 euro in tasca ce li ha e può spenderli per la sua salute, non si sta a fare tante domande e paga i suoi 70 euro al privato sociale, non i 150 del medico privato, i 70 del privato sociale. Il privato sociale, che ci sembrava una cosa interessante all'inizio del suo esordire, si rivela per quello che è, cioè lo strumento grazie al quale la gente ancora non si incazza, perché comunque fino a un certo livello, più in basso no, ma fino a un certo livello, la gente ancora, tirando fuori quei 70 euro, riesce ad avere una risposta più o meno immediata al suo bisogno di salute, o quello che gli sembra una risposta. E questo è un problema. E questi hanno fatto veramente, soprattutto negli ultimi 6 mesi, un anno, passi non da gigante, di più, cioè sono proprio andati oltre a quello che, cioè, se ci pensiamo, solo un anno fa che proponessero il medico di base privato non ce lo potevamo nemmeno sognare che qualcuno osasse tanto e che ci riuscisse anche bene. Lo fa, sì, Sant'Agostino, lo fanno anche tante altre, sì, tantissime altre strutture che lo stanno proponendo adesso, con la differenza che molte strutture, cioè il problema è che il privato convenzionato in qualche modo è un privato convenzionato, Sant'Agostino è un privato puro, non prendono i soldi dalla regione, per cui avevano questa patina di bravi, no? Perché non prendevano i soldi pubblici, però adesso si dimostrano per quello che è veramente uno dei poli del problema. Ma se posso aggiungere una cosa velocissima, poi un'altra cosa molto impressionante che fa sia il privato ma anche il privato sociale è la creazione poi di tutti questi pacchetti, per cui c'è il pacchetto prevenzione dove ti facciamo spendere un tot ma ti infiliamo dentro anche delle altre cose, e questa è tutta mercificazione della salute comunque, cioè è, non dico shopping sanitario, però praticamente quasi, è comunque mercificazione. Un'altra cosa che insomma sarebbe interessante da andare a vedere poi nel in divenire è anche appunto mano a mano che si crea un divario tra chi si può permettere di pagare un certo tipo di prestazioni e chi non se le può permettere, poi cioè a che livello spingiamo questa mercificazione, perché se io ho i soldi posso anche andare a fare una cosa che non mi prescrive il medico di base, perché tanto vado e me la pago. Cioè, quindi anche lì che cosa... O me la paga il welfare aziendale. O me la paga il welfare aziendale, la sanità integrativa di cui parlavamo prima. E anche questo è abbastanza inquietante, cioè forse adesso non abbiamo ancora, come dire, avendola in divenire questa cosa, cioè non ne vediamo ancora poi magari gli effetti che potrà avere, però è abbastanza inquietante se poi insomma proviamo a guardarla un po' da fuori. Volevo provare a fare un ragionamento, ma spero di non perdermi, ho purtroppo questo vizio. Allora, all'inizio della presentazione mi ero un po' agganciato a tutto il discorso di quello che sta succedendo adesso, che stanno appunto, si stanno aprendo, almeno in provincia da noi, si stanno aprendo alcune situazioni di, non so se forse conflittualità è eccessivo, comunque di, insomma, di protesta. Perché appunto un sacco di persone si trovano davanti a questa situazione di non poter accedere proprio neanche alla struttura più basilare, che per quanto possiamo poi criticarla, che è l'ospedale. E torno un attimo indietro, perché qualche anno fa con altri compagni avevamo ipotizzando che questa sarebbe stata una delle questioni che su cui il tappo sarebbe saltato. Avevamo fatto questo documento di approfondimento, discorso sulla sanità con lo Strolig, in cui eravamo andati un po' a vedere la genesi del sistema del Servizio Sanitario Nazionale, e l'avevamo appunto collocato nella fase storica, diciamo, nella fase, diciamo, fordista keynesiana, in cui nasce proprio come strumento comunque del capitale per garantire una migliore riproducibilità della forza lavoro in un periodo in cui comunque c'erano risorse e insomma lo Stato investiva su questo da un lato, e dall'altro c'erano comunque delle lotte che spingevano e che potevano pretendere la conquista, diciamo, di determinati benefici per i lavoratori. Poi è arrivato questo momento in cui questa cosa si è rotta e il capitale ha superato questa fase, e oltretutto quello della sanità è diventato un ambito in cui si poteva iniziare a estrarre valore. Adesso, quindi, sono passati un po' di anni, alcune cose sono state graduali, alcune cose come adesso stanno iniziando a diventare più esplosive, e quindi ci troviamo, secondo me, davanti a una forte contraddizione, cioè che da un lato ci si trova a dire, a fare delle lotte totalmente difensive, cioè arrivare a dire ok, difendiamo quel poco che è rimasto, l'ospedale, e quindi, però allo stesso tempo la contraddizione è, cosa facciamo? Continuiamo a difendere un qualcosa che ormai, cioè, nella logica del capitale è totalmente superato, è totalmente... E allo stesso tempo, dici, se non difendiamo neanche quello, dove andiamo? Perché non c'è proprio... Allora mi riaggancio alla vostra esperienza, che da un lato invece inizia a dire, al di fuori della difesa di quello che... è qualcosa che magari già in passato era stato criticato, perché centralizzava il discorso della sanità, non teneva conto di un discorso generale sulla salute, quindi di poter vivere in territori sani, insomma, prendendola proprio larga. E quindi dico, esperienze come l'ambulatorio medico popolare iniziano ad andare verso una direzione che è quella di dire, allora iniziamo noi dal basso a costruirci delle nostre strutture in cui autonomamente possiamo iniziare a sviluppare dei ragionamenti diversi, a tutelarci Però nel film il documento, c'era un documento che avete recuperato che anche lì pone una questione che non è da poco, cioè ma noi dobbiamo diventare la, andare a sopperire a dove le strutture del capitale non funzionano più e quindi cosa facciamo? Diventiamo collaterali, andiamo a completare dove, ma è questo che vogliamo oppure dobbiamo essere conflittuali? E il discorso è come? Perché poi ci sono tutta una serie di interrogativi a cui io personalmente allo stato attuale non so darmi risposta e l'unica cosa istintivamente che mi viene da fare è quella di dire beh mi butto a capofitto dove vedo che c'è qualcuno, qualcosa che si muove, provo a cercare di mettere insieme delle persone fin dove si riesce. Però se devo fare un passo successivo, io allo stato attuale una risposta non riesco a darla. E questo è un problema. E niente, vabbè. Ma nel film viene raccontata la storia di, penso, un immigrato, un migrante, che lavorava in fabbrica e ha preso una malattia polmonare, la tubercolosi, eccetera, che poi si vedevano scene di ambiente di fabbrica inquinato, eccetera, eccetera, e questo si rifiuta poi di fare un certo tipo di lavoro e viene sembra licenziato, fra l'altro. E quindi volevo chiedere se magari c'è un contatto, un collegamento con i sindacati di base che sono interni, diciamo, a queste situazioni di lavoro, specialmente nella logistica dove sono tanti gli immigrati e dove si potrebbe anche diciamo, stimolare delle lotte sugli ambienti di lavoro. Quindi in senso di prevenzione delle malattie. O penso anche per esempio al centro, al Comitato per la Salute sui luoghi di lavoro di Sesto San Giovanni, che è anche un collettivo ormai che c'è da tanto tempo. Insomma. Sì, no, ok. Vabbè, mi viene da dire che i collegamenti non sono semplici. Cioè, se viviamo in questa situazione di difficoltà, è perché non siamo, uso un plurale per riferirci a tutte le situazioni che si muovono sul terreno della battaglia per il diritto alla salute, non siamo fino ad ora riusciti a creare dei collegamenti che dovrebbero essere quelli che poi portano a delle azioni che sono tra, mettiamo tra queste parole fra virgolette, il paziente che vive una situazione di difficoltà perché non riesce ad avere una sua risposta alla salute e il lavoratore all'interno del sistema sanitario, della struttura, l'operatore sanitario, sia come singolo che come struttura sindacale. Questo è un problema. Adesso probabilmente anche con queste reti che stiamo cercando di mettere in piedi si tenta di fare un superamento di questa separazione, ma probabilmente uno dei problemi veri è che non si riesce a mettere in campo qualcosa che tenga insieme il bisogno di salute del paziente e le sue possibili rivendicazioni nel momento in cui si voglia mettere in gioco la persona e le realtà lavorative all'interno delle strutture sanitarie che fanno le proprie rivendicazioni per la loro situazione di lavoro, ma non si riesce a trovare un punto di incontro che porti avanti assieme. Forse si riesce in qualche caso fino ad ora, nel momento in cui c'è la minaccia di chiudere il punto nascita, la struttura ospedaliera te la tolgono da sotto il naso, poi tu ti devi fare dei chilometri per andare a avere una prestazione sanitaria e a quel punto lì i bisogni e le necessità dei lavoratori della struttura e quelle dei cittadini pazienti in qualche modo si possono coalizzare, coagulare, ma questo è un problema secondo me. E è un problema che va a pari passo di quello che diceva lui prima, su cui noi ci stiamo discutendo senza trovare una vera soluzione da 30 anni, cioè l'estrema scivolosità di questo crinale, da cui da una parte appunto rischi di fare il sostituto dell'istituzione e cerchi di non farlo, cerchi comunque di dare delle risposte a delle persone che hanno dei bisogni senza essere sostitutivo, senza diventare fare un assistenzialismo, un volontariato. È un crinale molto molto scivoloso, su cui noi da 30 anni cerchiamo di non scivolare da quella parte di là. Abbiamo avuto dei momenti in cui ci sembrava di stare sbilanciandoci un po' troppo nell'attività pratica che toglieva le castagne dal fuoco all'istituzione. Per fortuna non siamo mai scivolati tanto, ci siamo ripresi sempre abbastanza in tempo, però siamo ancora lì appunto da 30 anni a domandarcela questa cosa. E il fatto che dicevo prima che la maggior parte degli ambulatori popolari sparsi per l'Italia si occupa anche di chi dovrebbe avere il diritto sanitario già garantito è drammatico da questo punto di vista. Non so se ho risposto alla tua domanda. Secondo me c'è una difficoltà a far incontrare delle due realtà che dovrebbero avere gli stessi obiettivi. Ma sì, no, vabbè, ma si sente, no? No, aggiungerei anche che la realtà comunque del personale sanitario è sempre più disgregata e fa sempre meno rivendicazioni. E la tendenza è, visto il disagio che ovviamente si prova a lavorare nel pubblico, purtroppo non è quello di appunto fare lotte e rivendicazioni, ma piuttosto quello di scappare nel privato. Quindi negli ultimi due anni gli ospedali pubblici hanno perso tantissimo personale, ma veramente centinaia di unità che sono scappate nel privato, paradossalmente. Quindi è ancora più difficile far incontrare, diciamo, i lavoratori delle varie situazioni, perché ognuno cerca di insomma portare a casa insomma la propria barchetta e basta, ecco. Non so se qualcun altro ha qualcosa da aggiungere. Mi ha fatto riflettere quello che dicevi tu, soprattutto un passaggio dove questa riflessione che il capitale privato in un certo senso è andato molto più avanti del pubblico e che in un certo senso il lavoro incredibile che fanno loro si trovi quasi a dover compensare una situazione che è difettosa per sua natura, però cioè, secondo me c'è anche da tener conto, che perché spesso è un ragionamento che passa quasi per scontato, no? Che tutte queste forme di sanità privata vengono avallate anche dal pubblico perché si dice che manchino i soldi, ma il paradosso vero è che noi viviamo in un momento storico in cui c'è una concentrazione di ricchezze enorme. È questa cosa che noi dobbiamo pretendere di meno da un punto di vista pubblico, perché il pubblico ha meno soldi, è una totale cazzata. È quello che ci vuol far credere il capitale, questa cosa qui. Basterebbe andare a tassare Amazon, Google e tutte queste cose, e avremmo montagne di miliardi da spendere nella sanità pubblica e permettere a loro di fare attività politica e non di fare attività di togliere le castagne dal fuoco. Quindi secondo me bisogna stare anche attenti a dire che il capitale privato è andato avanti e il pubblico è rimasto indietro. C'è una precisa volontà politica lobbistica del privato nei confronti del pubblico, nel farci credere a noi società che il pubblico non c'ha soldi. È paradossale in un momento in cui c'è un'accumulazione di ricchezza aziendale gigantesca che per una volontà politica il pubblico non riesce a tassare. E quella è un po', e questo lo vedi in tutto, dagli oneri di urbanizzazione di una città come Milano, che sono i più bassi d'Europa, a qualsiasi cosa dove non c'è, si pensa in questa città soprattutto, e dicevi prima bene, non cambia tra sinistra e destra, non cambia assolutamente niente, anzi forse almeno destra sai che è il nemico, a sinistra invece... E cioè non, c'è sempre questa retorica che senza il privato tu non possa fare niente, che qualsiasi cosa tu voglia fare in questa città ci deve essere per forza di mezzo l'iniziativa privata perché è salvifica. In realtà c'è una volontà pubblica di far sopravanzare il privato, non ho ancora capito perché, per manifesta incapacità, per connivenza, per subordinazione ideologica, questo è un po' da capire, però non è il privato, che non è il capitale che sta facendo passi da gigante, che ha messo in piedi un sistema che il pubblico non riesce a supportare, è proprio una volontà politica di non volere affrontare, avremmo i mezzi per riuscire a venire fuori da questa situazione, soprattutto in un momento di concentrazione di ricchezza come quello che stiamo vivendo. Volete aggiungere qualcosa rispetto a questa cosa per chiudere? Bene, allora io vi ringrazio, veramente tantissimo per averci dato l'opportunità di proiettare questo film e di raccontare la realtà dell'AMP. Ringrazio tantissimo il Cox 18 per tutto l'aiuto che ci ha dato, ovviamente, i compagni del Cox 18 durante i vari imprevisti causati dalla pioggia. E ringrazio voi per essere venuti stasera e spero che magari riusciamo magari anche in questi primi pochi minuti che ci separano dall'andar via magari a scambiarci contatti in modo tale che per le prossime iniziative siate aggiornati in qualche modo. Grazie. Ciao.